La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Io sono nei detriti spaziali, nelle notizie da caso dei fronti siriani, sono negli alberi monumentali, in quelli abbattuti nei piani astrali, sono tra i cercatori d'oro, tra i fiori che crescono su ogni abbandono. Sono pericoloso io che ti rassicuro, visto all'improvviso. Benvenuti a questo nuovo appuntamento della prima volta che oggi ha come ospite Vasco Brondi, le luci della centrale elettrica. Allora, prima domanda, come si sta a ripartire con la promozione di un nuovo album? Come la stai vivendo? Ma è abbastanza surreale, perché questo qua, il lavoro del musicista, è un lavoro che contempla tanti lavori diversi. Quindi per esempio io per 2 anni ho scritto da solo, ho viaggiato, sempre un po' in solitaria, e poi all'improvviso ci si ritrova da topo della biblioteca a rockstar praticamente. Quindi anche stasera, in questi giorni, stiamo suonando davanti a 2-3 mila persone ogni sera, quindi diventa un'altra cosa, diventa all'improvviso un frontman. Però è molto bello avere queste due vite diverse. Ecco, tu ho letto che hai detto proprio che la scrittura dei testi in qualche modo deve nascere da una sorta di scomodità, cioè, o sofferenza, cioè la scrittura non ama la comodità. Mi è piaciuta molto come definizione questa. I tuoi testi li scrivi mentre viaggi, quando sei in quella fase, come dire, di topo, sì, isolato, sì, dal, sì, mondo? Effettivamente forse bisogna creare un po' le condizioni per mettersi a scrivere, e che sono, per me sono state, per esempio, finito anche con il disco precedente, il lungo tour che ha seguito, mi sono preso un po' di tempo da solo per viaggiare. Questo disco esce anche a forma di libro, perché c'è dentro questo diario di viaggio e di lavorazione che si chiama La gloriosa autostrada dei ripensamenti, e dentro ci sono proprio tutti i ripensamenti che ci sono nello scrivere un disco, nel mettersi nella condizione scomoda di tirar fuori qualcosa da sé, che è spesso scomodo perché non sai neanche quello che ci troverai. Dopo, quando ti metti nella condizione di scrivere, ci si trova spesso sorpresi. Ci sono anche temi e situazioni che credi che sotto sotto non ti abbiano toccato, non ti riguardano, che invece poi vengono alla luce. È sempre un po' una sorpresa. È un po' un evocare anche dei luoghi che a volte sembra che ti siano passati attraverso, invece ti lasciano una nostalgia proprio del posto stesso. A me ogni tanto vengono delle nostalgie di posti che era impensabile che potessi rimpiangere. È esattamente così. La musica in questo senso è il mezzo di trasporto più veloce che esista, perché con 2 note, con 2 parole, ti portano in altri continenti, in altri tempi proprio. Ecco, tu hai molto colpito soprattutto la critica musicale italiana nel tuo esordio, soprattutto per aver cantato una generazione, per aver cantato quella che poi è diventata una generazione di precari, quindi tu sei riuscito in qualche modo a raccontare tutta quella fascia comunque di ragazzi. Quanto sei cambiato rispetto ad allora? Quanto sei cambiato rispetto anche al tema della precarietà, ad esempio? Ma per me è successo tutto abbastanza naturalmente. Mi sono accorto che nello scrivere un disco, che neanche mai avrei pensato che uscisse, io facevo il barista da 5-6 anni, avevo 23 anni, avevo iniziato a lavorare a 17-18 anni, e ho scritto un disco che parlava dei miei 4 amici e del chilometro quadrato della città di Ferrara in cui vivevo, e poi mi sono accorto che in qualche modo rispecchiava anche agli altri, dicevano addirittura che era un disco generazionale, e questo mi ha colpito, mi ha fatto capire poi che quando uno parla di qualcosa che conosce benissimo e di molto intimo, c'è il rischio che diventi paradossalmente universale. Adesso mi sono accorto 10 anni dopo, sono 10 anni che faccio dischi, quindi adesso ne ho 33, ne avevo 23 con il primo, che nell'affrontare comunque queste tematiche, cioè semplicemente nel guardarsi dentro e attorno, che è questo che si fa nello scrivere canzoni, si guadagna anche uno spazio in più di libertà, perché nel fare musica c'è sempre, consapevolmente o inconsapevolmente, un bisogno dell'approvazione degli altri, che magari con 10 anni di crescita in più, non solo di fare musica ma di vita, riesce a perdere. In questo modo forse si riesce a essere ancora più liberi, cioè non liberi di fare qualsiasi cosa a caso, ma liberi di essere come si è. E io facendo il mio percorso non lo so quanto riesco a rappresentare gli altri o meno, è già difficile rappresentare se stessi, però credo che facendo una cosa con molta sincerità, molta verità, sia un antidoto a fare cose che poi non raggiungono gli altri. E la provincia Ferrara è rimasta lì nell'altro album o in qualche modo ritorna o c'è più il tema del viaggio in questo album? Ma in realtà credo che per me sia sempre molto presente, oltre al fatto che di base vivo ancora a Ferrara e mi piace molto quella dimensione, per me è da sempre un magnete fortissimo e anche una forza di respingente impressionante. Però mi accompagna sempre, mi piace vivere lì dove non sono musicista, dove posso passare dei mesi senza parlare di musica, per esempio. Poi mi sono accorto anche che, nonostante tutti i viaggi che ho fatto, poi dopo, quando tornavo a casa a Ferrara, rielaboravo il tutto. Via, facevo questi viaggi con la scusa dello scrivere, poi mi accorgevo che in realtà scrivevo pochissimo, ero troppo impegnato a guardare, vedere, camminare, a formare dei tragitti su quel posto che a scrivere. Quindi comunque ritorna per me come luogo in cui è possibile non difendersi e di conseguenza sei libero di far uscire delle cose da te, perché sento davvero la terra che mi regge lì. Perché lì tu sei vasco, non sei... Sì, lì forse sono più conosciuto per aver lavorato in vari bar in centro qualche anno che come musicista. E questo lo senti un po' come un po' di ali di leggerezza, sì, diciamo. Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo, c'è uno scrittore che amo, che lui sta nella provincia, in una provincia piemontese, che dice: a me piace continuare a vivere lì perché quando vado nel bar non manca mai quello che mi dà un coppino dietro la nuca quando entro. Diciamo che sdrammatizzano un po' certe cose che poi vengono anche esagerate, sono comunque solo ruoli, cioè noi siamo esseri umani e i nostri lavori sono solo ruoli poi. E a proposito di scrittori, è molto bello anche il ruolo che ha avuto un grandissimo, secondo me, scrittore e giornalista, Lodoli, Marco Lodoli, nell'aiutarti in qualche modo a metterti in contatto con un grande cantautore, Francesco De Gregori. Sì, è vero. Com'è vero. Andata lì? È stato molto bello, insomma, il passaggio di informazioni. È vero, Lodoli, che è un grande scrittore e giornalista, nonché una grande persona vicina alla, sì, realtà, che ha a che fare quotidianamente con i ragazzi, sì, insegna. E quindi lui per primo ha visto questo parallelismo dal suo punto di vista tra me e il lavoro di De Gregori, che lui conosce da decenni, e quindi un giorno mi arriva questa telefonata che mi dice: pronto, sono Francesco De Gregori, completamente inaspettata, e mi ha invitato a suonare prima di un suo concerto e addirittura a suonare nel suo concerto. Mi ha fatto concludere questo suo concerto enorme davanti a decine di migliaia di persone in Piazza San Carlo a Torino, dicendo: ma cosa ne dici se il mio concerto lo finisci tu cantando Viva l'Italia e io suono solo la chitarra? Ho detto: va bene, dai. E quindi è stato un momento davvero incredibile e surreale. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La prima volta. Prove di risvegli la tua vita, una ninna nanna inventata. C'è il teatro di Grotowski, lo yoga, la meditazione al mercato. Ben ritrovati di nuovo in compagnia delle luci della centrale elettrica, nella persona di Vasco Brondi. Parlavamo di quando De Gregori ti ha chiamato a casa e ti ha proposto di suonare e chiudere il suo concerto cantando Viva l'Italia. Allora, com'è andata? Racconta. È stato un momento davvero incredibile e surreale, ecco, perché per me anche adesso che c'è la possibilità di ascoltare qualsiasi cosa su tutte le piattaforme, mi rendo conto che ascolto le 4-5 cose che ascoltavo quando avevo 15 anni. De Gregori è una di queste, o Battiato, i CCCP, CSI, comunque sono rimaste effettivamente quelle le mie voci guida. Perché poi c'è anche un lavoro sul testo, forse, di questi cantautori di cui parli, che è inarrivabile. Assolutamente. Io mi ricordo che in casa mia non si è mai ascoltato tanta musica, non c'erano neanche i vari giradischi o mangianastri o cose così, mi è arrivata da fuori. E per caso mi ricordo da una radio, mi ricordo benissimo quando ho sentito la prima volta la voce di De Gregori, che erano i primissimi anni 90 e c'era Adelante Adelante. Ho sentito questa canzone con parole che non erano normalmente mai entrate in una canzone che io avessi sentito. Parlava di un autotreno carico di sale, parlava della statale e mi ricordo che sono rimasto assolutamente folgorato. Poi ho rincontrato per caso questa voce prima, e finalmente a casa di un mio amico ho detto: ma chi è questo? E quindi già comunque a 12 anni, a 13 anni, queste cose mi è sempre piaciuto questo, chi usa le parole, è un po' quello che cerco di fare, usare le parole come gruppi industrial. Negli anni 80 c'erano questi gruppi che usavano delle attrezzature da lavoro per fare musica, martelli, chiavi inglesi, tubi meccanici, e li usavano per fare poesia, per fare musica. A me piace usare quelle parole che normalmente sono usate nelle conversazioni di lavoro, tra amici, eccetera, e metterle nelle canzoni, e lì diventano qualcos'altro. Se parli dei compror in una canzone, comunque hanno dentro un immaginario che si arricchisce moltissimo. Che è la stessa cosa che succede anche in poesia, no? Cioè quelle evocare immagini che poi ognuno di noi legge e vive secondo il suo vissuto. Sì, che hanno una possibilità di essere davvero con più dimensioni nel momento in cui sono spostati da un contesto quotidiano a un contesto artistico. E di questo nuovo album ho letto che tu hai una canzone che ti emoziona soprattutto quando la suoni in pubblico, che è Chakra, perché senti molto tua e diventa poi di altri. Questo è proprio quello di cui parlavi adesso, no? Questo fenomeno di... È vero, che è qualcosa che ha a che vedere con l'esprimere qualcosa e liberarsi anche di qualcosa contemporaneamente, e fatto in pubblico con un rito liberatorio diventa qualcosa di incredibile, soprattutto quando sono canzoni come questa, che è forse il nucleo più intimo del disco, quindi anche più fragile e delicato, e cantati in 3000 in contemporanea è qualcosa che mai mi sarei aspettato. E poi mi colpisce molto come anche la mia musica, che non è mai vissuta di veri passaggi in radio, anzi io guardo negli occhi tutti quelli che le passano, perché vado direttamente nella trasmissione, e quindi ha avuto dei percorsi paralleli pur raggiungendo tantissime persone, e mi accorgo di come gli ascoltatori del disco trovano quali sono le canzoni più intime e le rendono più pubbliche. È strano da dire, però quello che dove veramente sentivo qualcosa di particolare ancora più che in altri, come per Cortocircuito si trasmette, e anche se non la fai uscire come singolo viene scoperta in qualche modo, è una magia della musica. Ascolta, una cosa che non ho capito invece è una frase che tu hai usato parlando appunto del disco Terra, etnia immaginaria, in mm-hmm. particolare a cosa ti rivolgi? Nel fare questo disco pensavo a fare una cartolina sonora, mi sarebbe piaciuto presentare il posto in cui vivo a qualcuno che non sa niente di questo posto, magari in una di queste terre dove forse c'è dell'acqua appena scoperte, e nel farlo ho pensato che serviva la colonna sonora di questo momento. E se io penso alla musica che c'è nell'aria, non penso al grunge che c'era negli anni 90, al post rock, penso a che la musica arriva prima e ci sta già spiegando la nostra identità in transizione. E quindi in questo senso è un disco etnico, di un'etnia immaginaria, ma è meglio dire nuova, che è quella italiana di adesso, che si sta formando adesso, e ha come colonna sonora questo disco, e forse anche la realtà, Milano particolarmente, i tamburi africani che si uniscono ai canti dei muezzin, che si uniscono alle musiche balcaniche, oppure quelle tradizionali italiane come cantautori. E l'abbiamo mischiato non facendo un disco di world music, ma facendo un disco filologicamente sbagliato, che forse però è anche il folk di adesso. Mi viene in mente l'ultima canzone di questo disco, si chiama Viaggi disorganizzati, e sembra musica balcanica. Invece mi è venuto in mente camminando per Ferrara la domenica pomeriggio, dove gli unici che suonano per strada sono questi complessi rom che vanno dai 6 agli 86 anni, che suonano fisarmoniche, fiati, e quindi la colonna sonora dell'inverno 2016-2017 era musica balcanica a Ferrara. Quindi quella canzone non è del tutto musica balcanica, è anche musica ferrarese, perché è il folk che si sente adesso per strada. Senti, per stemperare un po', parlando di musica balcanica, mi è venuta in mente la canzone fantastica di Elio sul concerto del 1° maggio e il concerto del 1° maggio, il tuo concerto del 1° maggio, perché tu suonerai. Sì, ecco, sì, sì. Che cosa significa per te? Che cosa significa per te suonare a un concerto che ha comunque simbolicamente è importante, perché racconta un paese che forse ha perso la dignità del lavoro, però in qualche modo resta, appunto, resta questo simbolo. È una cosa, non avevo effettivamente mai suonato, mi è capitato sempre di suonare il 1° maggio, ma nelle varie città dove questa ricorrenza comunque è sentita. Poi io sono emiliano, devo dire che da quelle parti è davvero molto forte, cioè quella settimana dove c'è prima il 25 aprile, poi il 1° maggio, una settimana con un'intensità fortissima, cioè gente che comunque le festeggia più di Natale, e tra tantissimi miei amici si fa il pranzo, la cena del 1° maggio, del 25, cioè, devo dire che per me è davvero una festività forte, quindi anche in questo caso poterlo fare in pubblico, condividerla con altre persone è importante. Mi piacerebbe che portasse con sé il fatto che non fosse solo musica. Io non credo che la musica sia solo musica, perché sennò non avrebbe senso. È possibile fare qualcos'altro attraverso la musica, che essere assieme, no? in tante situazioni. I concerti sono anche loro in questo senso in questo momento di schermi, no? Di lontananze che sembrano vicinanze o vicinanze che sono lontananze, condividere un momento con diverse migliaia di persone mi interessa come esperimento. Non so come sarà, se ci sarà davvero il significato del 1° maggio, se sarà solo un concerto, voglio andare a vedere, ecco. Lo capirei dopo. Esatto. Ecco. Ecco, volevo chiederti quest'altra cosa, però in parte mi hai già risposto, perché mi ero preparata un po' di cose. Tu come musicista quale urgenza senti? Cioè qual è in questo momento l'urgenza che senti di più artisticamente? Ma penso che poi le urgenze, se uno si guarda dentro veramente, siano prima di tutto devono essere sincere e personali, per poi avere forse una ripercussione fuori. E io quello che sento ogni volta che mi rimetto a fare un disco e che sento che è buono che sia così, è che ogni disco mi sembra di togliere uno strato in più di me e da me per arrivare un po' più nel profondo. Quindi credo molto nella... in realtà nel lavoro quotidiano e nella che garantisce una certa serenità e sincerità nel fare questo lavoro e senso, perché sennò diventa una ripetizione di scale che non portano da nessuna parte. E quindi io vengo da quella musica dove le chitarre servono per prendere appunti sulla realtà, non per scrivere note o simbolini sul pentagramma. Quindi mi piace molto questa cosa qui, mi piace che nella musica non ci sia solo musica, ma ci sia il coraggio di guardarsi dentro e attorno, ecco, come dicevo prima. E la tua formazione musicale come nasce? Cioè che tipo di percorso hai fatto? Ma è di quelli inconsulti, nel senso che ho iniziato a suonare il basso da ragazzino ascoltando i gruppi punk. Io De Gregorio lo ascoltavo di nascosto rispetto ai miei amici, perché comunque bisognava suonare il punk e non avevo alcuna competenza. Tuttora sono mancino, ma suono la chitarra come se fossi destro, perché quando avevo comprato questo primo bassaccio che avevo non sapevo neanche che esistevano gli strumenti per mancini, quindi ho cominciato così e mi ha fatto molto bene, perché per esempio sono salito da subito sul palco perché si andava nella scuola a suonare o cose così. Quindi tuttora non ho mai avuto né timore né paura, anzi il palco anche in tour è il momento dove sono, l'unico momento dove sono veramente comodo durante la giornata di spostamenti eccetera eccetera. E quindi la mia formazione è stata assolutamente impulsiva, cioè mi piaceva quella cosa lì, mi piaceva il punk perché mi aveva fatto capire che andava benissimo. Passa come da un certo punto di vista negativo e autodistruttivo, per me è stata la cosa più positiva che c'era, perché diceva che andavi benissimo come sei, che i tuoi difetti possono essere le tue bandiere. Questa cosa per me, per i miei amici, è stata incredibilmente liberatoria, mi ha fatto sentire davvero che andava bene come ero. Rivedendomi adesso, avevo 15 anni, non era così scontato, mi ha cambiato la vita. Ho sentito che quella lì era la strada per me, che io volevo fare quello. E poi dopo uno continua a suonare, poi si appassiona, quindi studi gli strumenti, studi il canto. Adesso mi piace molto tutto questo, però ho fatto il contrario di quello che si fa. Adesso vedo che i bambini, poveretti, gli fanno fare 10 anni di solfeggio, mentre la musica dovrebbe essere un gioco all'inizio. Poi se ti sei divertito a giocare, da solo vorrei approfondire, non il contrario, che prima ti fai come se fossi agli studi di ingegneria aerospaziale e poi dopo, se mai, farai fare qualche canzone. Perché a differenza di quello che hai fatto tu, cioè l'approccio del punk è anche un approccio, come dire, che azzera le aspettative. Cioè io vado avanti così, cioè cerco di attuare delle soluzioni, metto in atto delle... Sì, no, è vero. Invece adesso c'è molta aspettativa anche rispetto alla musica e all'infanzia. Sì, non c'era l'idea di performance, esatto. Ecco, che doveva essere, anzi lì dicevi, Madonna, sei stato veramente orribile quello che hai fatto, bene, vero, bello, rumorosissimo e così. Poi per me era molto importante perché il punk che mi veniva dai CGCP diceva non a Berlino ma a Carpi, cioè diceva che i nostri posti, che sembravano sfigatissimi, andavano benissimo, cioè che non c'era bisogno di andare a New York o a Londra, che le cose possono succedere lì. Mi avevano fatto capire la fortuna di crescere in un posto dove ci si annoiava moltissimo e quindi rendersi conto che se vuoi che succeda qualcosa, questa cosa la devi fare tu. E è una fortuna di cui me ne sono accorto dopo, lì per lì odiavo Ferrara. E adesso a Ferrara, quando vedi ragazzi, diciamo, di 15-16 anni, così come li guardi? Cioè, ti interessa sapere cosa sta succedendo? Sì, mi interessa molto, anche perché cioè, da questi ultimi 2-3 anni ho cominciato a vedere che sono davvero molto diversi da me e dai miei amici di quando avevamo 20 anni. Anche la loro concezione della musica, per noi comunque c'era tutta questa cosa che aveva un certo investimento anche identitario, per così dire. Cioè se si ascoltava punk, appunto, De Gregorio, lo dovevo ascoltare di nascosto, che non era neanche giusta come cosa, però c'era proprio tutta un'identità che ti dava anche forza, ti aiutava. E invece adesso vedo che sono forse più liberi da questo punto di vista, nel senso che puoi ascoltare una cosa e un'altra completamente diversa, e il modo di fluire musica assolutamente è diverso. Sembra una vita fa, comunque ci si comprava i CD risparmiando, e quando compravo un CD, anche se non mi piaceva, me lo facevo piacere per come l'avevo preso, quindi si viveva comunque la musica evidentemente in un altro modo. E, però sono sicuro che tutte le cose che escono, che sia hip hop, quello che piace adesso ai ragazzi anche più giovani, di 15 anni, di 18, non importa il genere. Cioè io vedo che quello che piace è quando c'è il soffio della vita dentro, che sia metal, hip hop, eccetera, eccetera, non è questo. La musica sì, dopo ha codici diversi, però quello che passa davvero è il soffio della vita, la spinta propulsiva, questo continua a piacere e piacerà per sempre nella musica, credo. Anche nella letteratura, in tutte le forme, esatto, artistiche, è vero, questa è una cosa bellissima che hai detto. Chiudiamo l'intervista con questa domanda, ma De Gregori lo sa che tu ascoltavi di nascosto perché i tuoi amici... No, non gliel'ho detto. Gli hai detto. Invece... Però adesso lo rivendico, quindi le sto recuperando. Pianificare, da improvvisare. C'è un convento abbandonato sul Lago Maggiore. La prima volta termina qui, siete come sempre benvenuti sulla nostra pagina Facebook, tutti i riferimenti li trovate sul sito di Radio 24 cercando La Prima Volta. Vi aspetto domenica prossima, buona festa della liberazione a tutti, che la forza sia con voi. Ciao da Cristina Carpinelli.